fondo di questa piccola stanza, i miei incubi attendono l'ora in cui nutrirsi di me. L'angoscia scaccia di nuovo il mio debole sonno, ma non mi importa poi tanto, io stesso sono un fantasma, sono solo un cadavere in attesa di me. In questi giorni anche il minimo è sempre più inafferrabile ed incerto, e sembra fuori portata. Certe volte vorrei poter non pensare e vivere una vita di default con il pilota automatico, e sarebbe più facile nei momenti così.